con Paolo Papini della band Muse del Diavolo. Paolo, ben trovato. Buonasera, bentrovati a voi. Cominciamo con le presentazioni. Quanti siete e qual è la vostra musica? Allora, noi siamo 8 componenti. La musica è, diciamo, medievale, però formata da cornamuse e tamburi, con una ragazza che danza. I tamburi però non è che proprio sono filologici al massimo, sono più tribali, quindi è un mix tra tribale e medievale. Come nasce il progetto? Io andavo a suonare musica medievale nelle feste e trovavo, insomma, che a volte al pubblico normale, diciamo, risulta un po' pesante la musica medievale. Quindi ho cercato di organizzare qualcosa di più fruibile, qualcosa di più piccante, qualcosa di più attraente. Fate un'intensa attività dal vivo, suonate anche in strada. Allora, il gruppo è sia itineranti che possono andare anche sul palco. Praticamente siamo abbastanza richiesti, perché comunque portiamo molto spettacolo, in quanto allora, la musica è potente, perché abbiamo 4 cornamuse e 2 tamburi. Quindi la musica arriva, no? Quando arriviamo anche itineranti si sente. E poi la scena, abbiamo delle maschere, abbiamo innanzitutto dei costumi medievali, un po', diciamo, anche un po' vichinghi, tra virgolette, no? E poi usiamo anche delle maschere di cuoio che raffigurano come sacri, capito? Quindi c'è parecchia scena. La ragazza che balla col fuoco, che danza anche col fuoco, quindi Ecco, diciamo, questa cura nell'immagine con i costumi e le maschere, da dove viene? allora, innanzitutto il costume viene perché suonavamo nelle feste medievali, quindi di base sono basi costumi filologici. Sì. Abbiamo, le mie scarpe costano quasi 200 euro. Quindi, e poi tutto è curato nei particolari, anche dalle collane ai Al bracciali, agli trucco. anelli. E poi vabbè, il trucco un po' forse è meno filologico, però diciamo che è una teatralità medievale. La scelta del nome? Qui c'è un discorso da fare. Allora, innanzitutto la cornamusa è suonata in Italia da sempre. Il documento più antico che esiste ha scritto Svetonio, no? Parlando di Nerone, lo chiama Utricularius perché suonava il flauto attraverso l'otre. È il documento più antico scritto che esista della cornamusa. Quindi Nerone suonava la cornamusa. Ecco, questo per dirvi, no? Quanto la cornamusa rientra nella nostra tradizione, no? Perché non tutti lo sanno questo. Tutti pensano che la cornamusa sia uno strumento scozzese. E invece, questo è importante saperlo, la cornamusa è uno strumento molto italico. E nel Medioevo era stato un po' demonizzato dalla Chiesa, perché praticamente portava tutte le tradizioni pagane con sé, no? Infatti era usata anche nelle feste, perché la cornamusa, essendo uno strumento amplificato, faceva ballare le persone anche in tutti i posti. Quindi, che succede? Che a un certo punto la Chiesa lo vieta. E poi, tra l'altro, troviamo anche in diversi processi alle streghe, no? E parecchi testimoni dicono che durante i sabba c'era qualcuno che suonava la cornamusa. E quindi viene demonizzata e viene chiamata la sacca del diavolo. E da qui, ecco, le muse del diavolo, per indicare le cornamuse del diavolo, cioè quella sfumatura, insomma, medievale, che è stata negata, insomma. Strumento proibito. Dicevi della musica medievale, ecco, avete dei riferimenti geografici e temporali rispetto alle influenze? Allora, guarda, noi suoniamo capiti saltarelli, no? Che sono dell'area dentro Umbria, Toscana, Lazio, che praticamente è proprio dove siamo noi. E poi dopo, vabbè, spaziamo un po', medievale è un po' generico, perché facciamo anche qualche pezzo rinascimentale, in effetti. E poi, a dirla tutta, no? Abbiamo iniziato a fare anche qualche pezzo originale nostro. Però sempre, sempre in stile, cioè non si capisce, sembra un pezzo medievale, sempre in quel modo di suonare. In questo senso avete già inciso qualcosa? Ma abbiamo fatto, sì, abbiamo inciso diversi pezzi che poi ci abbiamo fatto dei video che potete vedere su YouTube. Su YouTube c'è parecchio materiale perché poi adesso tutti col telefonino, quindi quando nelle feste, quindi parecchi pubblicano e sui social siamo attivisti, insomma. Avete anche un sito internet? Sì, il sito è in costruzione, è comunque musedeldiavolo.it. E poi su Facebook c'è tantissimo materiale. Quello fa riferimento rispetto anche alle date dei vostri prossimi concerti. Benissimo. Sì, c'è un calendario sempre pubblicato. Allora, un complimenti, un saluto e un ringraziamento e a presto. Grazie a te e al tuo blog e a presto. Grazie tanti.